solo che la noia sale, tu per me sei una rivale, cerca di non ritrovarci più. Quante volte t'ho già chiesto tu chi sei, ma non adesso, sto per fermarti, torna qui. Tu sei la mia follia, la mia malattia, non sprechi neanche un minuto. La forza che è dentro te l'accetterò, ma lo so, perché non sei mia, è la mia gelosia. A perdere impazzirei, accendi in me quella sensazione, come se non dovesse finire. Yeah.